Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Sono pronto. Sono convocato. Sono stato convocato. Siamo state convocate anche noi. Mister, siamo convocati. Sono convocato. Mister, ci sono. Andiamo. Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Una curva adesso, la parabolica, la storia per Pierre Gasly è oggi. Incredibilmente con l'Alfa Tauri Pierre Gasly vince il Gran Premio d'Italia. Clamorosa impresa di Pierre Gasly, che vince il suo primo Gran Premio della storia in Formula 1 davanti a Carlos Sainz su McLaren, davanti alla Racing Point di Stroll. Gara pazza. E insomma, la notizia è che senza le Mercedes in pista, o quasi, senza le Ferrari, ma questo non fa più notizia, anche se adesso ne parleremo, senza Verstappen, senza la Red Bull, la Formula Noia è quasi uno sport divertente, anzi può anche regalare dei pomeriggi folli come quello di Monza, che, come abbiamo raccontato in presa diretta nel GR, ha visto trionfare Pierre Gasly sull'Alfa Tauri davanti a Carlos Sainz, McLaren, Stroll, Racing Point, poi Norris, Bottas, Ricciardo. Bisogna scendere fino alla settima posizione per trovare il nome di Lewis Hamilton, che rimane ovviamente ampiamente leader della classifica mondiale, ma che oggi è stato protagonista di un pomeriggio davvero bizzarro, strano, che cercheremo di raccontare. Ritirati oltre a Vettel e Leclerc, con due situazioni differenti, anche Max Verstappen, che ha perso una grandissima occasione in assenza di dei tradizionali competitor. Allora, siamo in diretta, ripartiamo dopo la pausa di agosto. Ciao Carlo. Ciao Giovanni, bentornato, bentornati agli ascoltatori, tutti convocati Weekend. Esatto, tutti convocati Weekend. Sarà una lunghissima volata, perché ricominciamo oggi e vi terremo compagnia tutte le domeniche, io credo praticamente fino al 2022, considerato che la prossima estate ci sono gli europei, ci sono le Olimpiadi, e poi si salderà alla stagione successiva. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta, e vi invito a prenotarvi già da ora. Parleremo dopo la Formula 1 anche di calciomercato, faremo i conti in tasca alle squadre, quanto possono spendere, quanto sono in difficoltà a livello di bilancio. Parleremo della chiusura degli stadi, praticamente ufficiale almeno fino a fine settembre non si potrà entrare in uno stadio per vedere una partita di calcio, anche se in realtà ci sono degli sport che si fanno davanti al pubblico, e quindi cercheremo un po' di fare il punto, e poi faremo il punto anche sul Tour de France, che ha una nuova maglia gialla. Parleremo degli US Open, insomma, menù ricchissimo. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 SMS, WhatsApp, anche vocali. Saluto Umberto Zappelloni. Ciao Umberto. Ciao direttore. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, possiamo sintetizzare che se non c'è la Mercedes o dorme, come nel caso di Bottas, la Formula 1 diventa uno sport anche divertente? Assolutamente, si vede un po' come un campionato italiano senza la Juventus, forse, no? Cioè, senza chi domina, poi gli altri, che sono molto vicini, combattono, e alla fine è stata una gara divertente, divertente, con dei protagonisti assolutamente inediti e inaspettati. Per la prima volta ha vinto il milanese Gasly, perché lui, grazie alla fidanzata, vive qui dalle nostre parti, ha vinto con un team che in fin dei conti nasce a Faenza, perché l'Alfa Tauri non è altro che la vecchia Minardi, quella che nel 2008 aveva vinto con Sebastian Vettel, con il bambino Vettel, proprio a Monza. È stata alla fine una bella gara, senza, così almeno non dobbiamo piangere ancora sulla Ferrari, che oggi ha scritto un'altra pagina nera della sua storia arrivata al millesimo Gran Premio. Adesso ne parliamo, sono state in realtà due gare in una, nel senso che c'è stata una prima gara durata 25 giri fino all'incidente di Leclerc, che ha costretto la direzione gara a fermare tutto, e in quel momento c'era in testa Hamilton, anche se aveva già commesso l'errore fatale che gli sarebbe poi costato la penalizzazione e di fatto la vittoria. Hamilton, che stava letteralmente dominando come da tradizione in questo avvio di stagione, e non solo. E poi c'è stata una seconda parte di gara in cui addirittura le Mercedes si sono dimostrate quasi in difficoltà, Carlo, in alcuni passaggi. Ma credo che la notizia sia questa: è stata la corsa più pazza del mondo, sembra scherzi a parte, no? Quando abbiamo sentito la telecronaca dell'arrivo. La vera notizia sta nel fatto che, al di là, lasciando stare le Ferrari, che poi riprenderemo, la vera notizia è che Hamilton ha avuto quel problema con un semaforo rosso, non granché leggibile, perché la situazione è stata abbastanza strana, ma Bottas non andava, Verstappen weekend totalmente da dimenticare, quindi non è stato soltanto il giorno di vacanza del capobranco, sono le Mercedes che hanno avuto difficoltà, le Red Bull che hanno avuto difficoltà e quindi tutte le seconde linee che hanno avuto difficoltà, ad esempio la McLaren, Stroll e Sainz dovevano arrivare davanti nella logica dei giochi, dovevano arrivare davanti al meraviglioso Gasly. Che invece ha vinto. Come leggiamo la questione Hamilton? Penalità per essere rientrato nella pit lane con pit lane chiusa, anche se lì si è giocato tutto su pochi istanti, centesimi di secondo forse. Ma è a 220-240 all'ora, vedere quel cartellino rosso all'esterno della parabolica non è esattamente la cosa più semplice del mondo. Credo che se c'è stato errore, c'è stato errore del team, perché il team invece sul suo computer dovrebbe avere le certe segnalazioni e non doveva far rientrare Hamilton, così come la McLaren e il team e le squadre appena dietro la Mercedes, non erano anni luce dietro la Mercedes, non hanno fatto rientrare tutti i loro piloti, solo l'Alfa Romeo, che vabbè, lì siamo nel caso oltre, perché è arrivato un anno luce dopo e ha fatto rientrare Giovinazzi. Proprio non ci siamo assolutamente nella gestione del team, però io credo che c'è colpa più del team che di Hamilton. Non si può dire a un pilota che ha fatto un errore grave quando lo abbiamo visto in televisione, quel semaforino rosso quasi non si vede, e all'uscita del box il semaforo era ancora verde, quindi insomma lui poi è andato anche lui personalmente in direzione gara col suo monopattinino a cercare di spiegare la situazione, poi ha fatto una grande rimonta però su una pista come Monza, anche se la Mercedes ne ha più di tanto. Qui si è vista la mancanza del party mod cosiddetto, che non ha potuto esagerare con il motore e non è riuscito ad andare oltre. Avrebbe vinto con il party mod, dai, proviamo a fare Fanta Formula 1. Ma forse sarebbe arrivato sul podio, poi vincere, sai, in una pista come quella di Monza è difficile poi sorpassare, però sicuramente forse al podio ci sarebbe arrivato. Ma può essere solo la corsa più pazza del mondo, può esserci un sequel di questa vicenda? Ma se legano Hamilton anche nelle prossime gare, però non andavano neanche Bottas e Verstappen, direttore. No, non andava Bottas, io ho come la sensazione che quella cordolata che ha preso nel giro di ricognizione, dove è saltato sui cordoli di Monza, gli abbia rotto qualcosa nella macchina o gli abbia compromesso qualcosa nella macchina, perché sembrava che fosse una Mercedes taroccata la sua, quella con cui non andava, già ha perso in partenza, poi non andava. Verstappen ha avuto un problema al motore che evidentemente lo ha limitato fin dal via. Fa sorridere il fatto che la Red Bull è la squadra che più ha voluto l'abolizione del party mode, è la squadra che forse meno ha giovato dall'abolizione del party mode, anzi che forse ne è stata più penalizzata, perché in qualifica non abbiamo visto il protagonista e in gara è scomparso quasi subito, mentre abbiamo visto ad esempio i motori Renault, che sono quelli che hanno guadagnato di più dal party mode con la McLaren e con le stesse Renault. Prima di parlare della Ferrari parliamo di Carlos Sainz, perché da ferraristi abbiamo provato a consolarci anche con Carlos Sainz. Alla fine è rimasto beffato per un secondo, io ho avuto l'impressione a un certo punto che si considerasse quasi scontata l'idea che potesse mettersi in coda a Gasly e superarlo, cosa che non è accaduta. Ma un giro in più forse ce la faceva, ci ha messo tanto a riavvicinarsi, ad entrare e a poter prendere il DRS. Ha fatto una bella gara anche lui, e devo dire che tutti e due i ragazzi hanno fatto una bellissima gara. La McLaren sarebbe stata una vittoria storica, dal 2012 che non vinceva più una McLaren, però era più o meno dallo stesso periodo che non andava sul podio. Però non dimentichiamo che insomma l'Alfa Tauri una volta a Milano ha vinto una volta sola nella sua storia, e questa è la seconda, insomma. E comunque made in Faenza, insomma. Giancarlo Minardi, che è spesso vostro ospite, oggi sarà più contento di Piero Ferrari e degli uomini della Ferrari. Oggi per il momento ti informo, è col cellulare staccato. Ci stiamo provando, vediamo. Allora, non abbiamo ancora parlato della Ferrari, adesso lo facciamo, c'è il traffico 800 24 00 800 24 00 24, numero verde, vi chiedo di prenotarvi già da adesso, 349 238 6666, sms, whatsapp, il traffico, e poi apriamo la pagina dolente della Ferrari. per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. The brakes failed. Problemi ai freni. Problemi ai fermi. Problemi. Per Sebastian Vettel, era lì a lottare per la terz'ultima posizione con Russell, è arrivato alla staccata, è andato via dritto, neanche ha provato a girare perché non stava frenando. Classifica Hamilton, Stroll, Gasly, Leclerc. Botto. Leclerc. Sì, sta bene però, sì. Leclerc. Siamo spaventati con Leclerc, era quarto, eravamo al 25esimo giro nel mezzo del casino delle pit lane, potenzialmente quindi in grado anche di competere in quel momento per il podio o magari possiamo buttarci là anche per la vittoria. È uscito la parabolica oltre 250 all'ora, ci siamo spaventati, fortunatamente non si è fatto nulla, ci è scesa una lacrimuccia vedere una Ferrari fermarsi dopo sei giri con problemi ai freni, quella di Vettel, in un weekend che io credo sia forse il peggiore, Umberto, della storia della Ferrari. Beh, sicuramente a Monza era dai tempi di Alesi e Berger che si eliminarono con una telecamera, che c'è quasi 25 anni che non arrivava una al traguardo. È un weekend in cui tu sei 13°-17° in partenza sulla pista di casa. Quindi se mettiamo insieme tutto, quindi. Vettel ha avuto una rottura che sinceramente io credo che un team con la Ferrari dovrebbe evitare di avere. Hai costretto Leclerc a strafare, perché lì ha cercato di strafare cercando di tenere la quarta posizione e a fare un errore, perché poi alla fine sembra non si sia rotto nulla e sia stato un errore suo, e gli ha perso la macchina alla parabolica, che l'anno scorso faceva occhi chiusi con Hamilton incollato dietro e quest'anno non è riuscito a fare come vorrebbe. Quindi è una Ferrari che, lasciatemelo dire, è forse una cosa brutta da dire, ma sta diventando quasi pericolosa anche per i suoi piloti, e non è bello la vigilia del millesimo Gran Premio che riunirà tutti i piloti che hanno corso almeno una gara a Firenze per la grande festa di sabato sera, che la Ferrari si trovi a festeggiare qualcosa di storico in una delle peggiori momenti della sua storia, con le porte girevoli che vengono chiuse, perché la Ferrari che perde, secondo quello che dice Camilleri, non va cambiata. E questa è una cosa che continuo a non capire. Ecco, hanno senso queste parole o no? Camilleri è amministratore delegato della Ferrari, ha detto uno dei problemi qui è che sono cambiati troppi tecnici negli ultimi anni, e quindi dando continuità in un certo senso a questo gruppo e a questo progetto, che in assoluto non è una cattiva idea quella della continuità anche in un momento difficile. Il problema è che c'è momento difficile e momento difficile. Ma qui non vedi la fine però. Cioè, la continuità è giusta darla se hai un team vincente. Questo team 2 anni fa, con Sebastian Vettel, nell'ultimo Gran Premio in cui il povero Sergio Marchionne era ancora in vita, era in testa al campionato del mondo. Poi sbagliò Vettel, ma la squadra era in testa al mondiale. Da allora ad oggi abbiamo visto, l'anno scorso, una squadra che ha visto 3 Gran Premi, e abbiamo visto come, evidentemente, esagerando, andando oltre i limiti e facendosi beccare con le mani della marmellata e pagando drammaticamente quest'anno con la penalizzazione sul motore. Cioè, direttore, so che ti pongo sul vivo, ma qui è come avere il Milan in zona retrocessione e ti dicono no, ma guarda che va bene così, alla fine vedrai che arriveremo a metà classifica magari tra 2 anni, perché la Ferrari è una macchina da zona retrocessione, è una macchina che deve correre in difesa per salvare la faccia e arrivare settima, ottava, e a quel punto lì essere quasi contenta, e ti dicono va bene così, ma vedrete che con gli stessi cresceremo. Ma quando? Cioè, no, ma poi ti inquieta perché ti dicono portiamo il pacchetto Monza, quindi a Monza dovremmo andare un po' meglio, ma a Monza sei andato quasi come a Spa, hai visto che faticavano a stare dietro all'Alfa Romeo. Cioè, l'Alfa Tauri che ha vinto oggi a Monza, ma perché deve essere più veloce della Ferrari? Cioè, è qualcosa che non riesco veramente a capire, perché dare fiducia, cioè, la continuità va bene, ma non se hai dei problemi, se la squadra non riesce a trovare la retta via, neanche a fare il pacchetto per Monza, che è la pista di casa, quella in cui il fondatore metteva sempre qualcosa in più per riuscire a ottenere un buon risultato. C'è bisogno di andare a fare una campagna acquisti importante, poi Il problema è che oggi come oggi non è semplice convincere i tecnici di un certo spessore a venire a Maranello, perché da quello che si racconta dai corridoi di Maranello non è che poi si viva tranquillamente. La crisi, che non è un temporale, non è una tempesta, è molto molto sentita anche all'interno del team, quindi è un momento veramente della storia Ferrari molto molto nero. Il Milan è ripartito dalla Serie B e ha vinto 7 Champions, quindi insomma l'augurio è che la Ferrari riparte da questa zona e torni a vincere, però bisognerà avere molta molta pazienza, ed è importante adesso che non si rischi che i piloti si facciano male perché cercano di andare oltre quelle che sono le obiettive chance della vettura. Il Milan è passato dalla B, ne è uscito e ha vinto 7 Champions, con in mezzo però uno shock, cioè quello di Silvio Berlusconi, che di fatto ha cambiato per mille motivi la storia recente del calcio italiano. Poi ognuno abbia la sua opinione, però questo è un dato di fatto, può essere un bene o un male, ognuno insomma può giudicarlo come vuole. Questa Ferrari non è in grado di farlo in questo momento. E a proposito di campagne acquisti, e stiamo parlando a livello tecnico, oltre che molto costose e molto difficili, sono poi anche molto lunghe, perché i tempi degli ingegneri top, ammesso che scelgano di venire a Maranello, sostanzialmente si misurano in mesi e in anni, non in settimane. Assolutamente giusto, perché un tecnico di Formula 1 ha un periodo in cui non può lavorare per una concorrente, il famoso gardening, e poi gli effetti non li vedi come l'allenatore che cambia la formazione in settimana e già la domenica vedi una squadra diversa. Gli effetti li vedi sulla macchina, neppure la prossima che è già partita, ma quella dell'anno ancora dopo. Quindi veramente bisogna passare non al 2021 ma al 2022, quando si partirà veramente per tutti da un foglio bianco, e lì è importante avere la squadra che ti faccia qualcosa di innovativo e che possa inventarsi qualcosa di buono. Certo, oggi tu hai una Mercedes che anche se oggi non ha vinto a Monza, stava dominando con Hamilton anche su questa pista con o senza party mode, e dall'altra parte avevi quello che è il miglior ingegnere del riconosciuto Adrian Newey, che non riesce comunque a fare una Red Bull così competitiva, la Honda che non è riuscita a fare un motore come quello dell'anno scorso anche loro, quindi insomma sono tanti nei guai, la Ferrari decisamente in più degli altri. Intanto c'è un'immagine bellissima, c'è il podio di Monza, se ne sono andati tutti, anche quelli sotto, tra l'altro pochi perché non ci sono i tifosi, pochi chiaramente, c'erano i ragazzi del team dell'Alfa Tauri. Era rimasto soltanto Pierre Gasly seduto con a fianco il suo trofeo, parlava tra sé e sé, secondo me era probabilmente, stava anche un po' piangendo. È rimasto lì qualche minuto pensando che adesso quando ci torno. Ha preso il trofeo e sta andando a festeggiare con tutti gli altri, probabilmente ha voluto godersi veramente fino all'ultimo un momento e un pomeriggio irripetibile nella sua carriera. Giovanni, come sa meglio di tutti gli altri, il posto lì è prenotato, oggi inquilino provvisorio, però al prossimo giro torna quell'altro. Veramente quindi. Molto bella e molto umana. Sì. Ciao direttore. Ciao Umberto. Ciao ragazzi, buon proseguimento. Umberto Zappelloni, dunque abbiamo raccontato questo Gran Premio d'Italia folle con la vittoria di Gasly davanti a Sainz e Stroll, e adesso ci pigliamo qualche minuto per parlare dell'altra nazionale, della Ferrari. Abbiamo detto tutto il male possibile, ma del resto è la Ferrari che ci porta oggi a parlarne così. Volevo sapere cosa ne pensate invece della nazionale che avete visto venerdì sera, e rivedremo domani sera ad Amsterdam. Parliamo della nazionale di Roberto Mancini. Saluto Matteo Marani, ciao Matteo. Ciao Gianni, ciao, buongiorno, ciao a tutti. Che impressione vi ha fatto, al di là della statistica per cui si è interrotta la striscia delle 11 vittorie di fila, Matteo? Ma guarda, secondo me è difficile esprimere un giudizio su quella partita, una partita veramente particolare, insomma teniamo conto che c'erano molti giocatori che venivano neanche da altre gare ma semplicemente da allenamenti. Io continuo a pensare che la cosa più importante della partita, non voglio minimizzare, ma il fatto che la nazionale è tornata in campo, erano passati 10 mesi dalla bellissima notte di Palermo, però quella con l'Armenia, ovviamente con i 9 gol, però non, secondo me non si può dare un giudizio in questo momento sulla nazionale. Certo, le cose sono fuori come messaggi, come segnali, cioè a centrocampo abbiamo certamente bisogno di Jorginho e Verratti perché sono probabilmente insostituibili in questo momento. Qualche buona notizia è arrivata, ho visto un ottimo Barella, ho visto un buon Sensi tenuto conto insomma del lungo periodo di inattività, un discreto Insigne, qualcosa di buono si è visto. Ecco, magari domani partita contro l'Olanda, contro un avversario insomma di pregio, di prestigio, di storia, Forse riusciamo anche a vedere qualcosa in più. Intanto ci sarà comunque una partita in più nelle gambe. A me è piaciuto molto il clima di disponibilità, perché c'erano alcuni giocatori con una settimana di allenamenti nelle gambe. Onestamente è vero che inizia la stagione dell'Europeo, ma ci si poteva anche tirare indietro in mille modi, e nella storia della nazionale, Matteo, ne abbiamo visti 2000, no? Di modi per dare forfait e tornare a casa dal proprio club. Invece mi sembra che Mancini abbia veramente in mano questo gruppo, abbia veramente in mano questo progetto, e sia un progetto nel quale credono in tanti. Ma secondo me Mancini è credibile ovviamente agli occhi dei giocatori, un po' per la sua storia, questo non è mai secondario, e poi per quello che ha fatto, insomma, comunque le 10-11 vittorie, 10 diciamo nel girone di qualificazione, sono tutte dalla sua parte, quindi io credo che lui stia facendo un percorso eccellente, che abbia, come dire, messo le basi anche per una ripartenza di tutto il movimento. Io credo che il ruolo di Mancini sia stato più ampio di quello del commissario tecnico, cioè ci sono dei commissari tecnici che nella storia proprio nazionale hanno vissuto delle fasi, hanno magari gestito la situazione, pochi hanno cambiato, invertito un po' il corso del movimento, e secondo me Mancini è uno di questi, perché ha preso la nazionale nel momento più basso, dopo ovviamente la mancata qualificazione al mondiale, con molto pessimismo attorno e con alcune convocazioni, penso a Zaniolo, ma penso a tutta la serie di giovani, e soprattutto col gioco, perché insomma, abbiamo visto anche veramente una bella nazionale per molte partite. Io credo che lui abbia dato un segno, abbia cambiato un po' il clima attorno anche alla nazionale, e quindi questo lo estendo al calcio italiano. È stato molto importante. Secondo me Mancini vive in questo momento il meglio della sua carriera. D'altra parte, ci eravamo lasciati 291 giorni prima con una nazionale che era già fatta praticamente per gli europei, aveva già una sua faccia, una sua identità anche emotiva. Adesso si riparte ovviamente non da zero, riparti da quel clima lì, con giochi che sono fatalmente aperti nella race verso europei. I giocatori lo sanno, e credo che la disponibilità possa arrivare anche da quello. È una nazionale in cui si carano totalmente credibile, questo sì, questo è l'eredità che ci è rimasta negli ultimi 10 mesi, secondo me. Matteo? Sì, no, sono assolutamente d'accordo con Carlo, cioè credo anch'io che il patrimonio di autostima anche di questo gruppo, che poi gli era trasmesso Mancini, ma che poi è arrivato ai giocatori, c'è un senso di unità, di unità di intenti, di comunione di idee. Detto tutto questo, io continuo comunque a caldeggiare, a sostenere molta cautela, perché guardando un po' le partite internazionali, anche se siamo qui all'inizio, però sono qualcosa anche in questi giorni ho guardato, ma soprattutto negli occhi, diciamo, le ultime partite delle nazionali prima della sosta causa Covid, credo che ci sia una concorrenza molto forte nel resto d'Europa, cioè non vorrei che poi si andasse dall'altra parte e ci fosse un eccesso di entusiasmo e di aspettativa su una nazionale che è in crescita, che certamente sta dando buoni segnali, ma che rispetto alla concorrenza dei paesi trainanti, secondo me è ancora un po' indietro. Abbiamo visto qualcosa anche in questi primi 2 giorni di Nation League. Allora, noi ci fermiamo, io mi tengo Matteo Marani, mi tengo ovviamente Carlo Genta, tutti voi, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta. Facciamo un minuto di pausa e poi ci caliamo, sempre calcisticamente parlando, in attesa delle parole di Mancini da Amsterdam, conferenza stampa che inizia tra qualche minuto. Ci caliamo nell'altro grande tema, e quello stadi aperti, stadi chiusi, palazzetti aperti o chiusi, tema che stiamo affrontando un po' all'italiana. Ci fermiamo a quello che vediamo qui, perché ad esempio nel Tour de France ieri abbiamo visto delle scene incredibili in negativo sui Pirenei. Stiamo affrontando un po' l'italiana, un po' sì, un po' no, con una certezza che diventerà ufficiale in queste ore, e cioè che almeno fino a fine settembre non ci sarà alcuna autorizzazione per riaprire gli stadi di calcio, anche se poi alcuni, scopriamo, sono già aperti in Italia. Voglio sapere cosa ne pensate voi, 800 24 00 24, e ci ritroviamo tra un istante con Carlo Genta e Matteo Marani. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati. È stato strano veder giocare per così tanti mesi le partite a porte chiuse, si sente tutto, non si percepisce, non c'è quell'emozione che hai quando ci sono tante persone, e ci auguriamo che al più presto possano tornare i tifosi. Non sarà, tra virgolette, bello domani cantare l'inno, no? Ci trasciniamo tutti insieme, tutto lo stadio, a cantare con noi e ad emozionarci. Sarà sicuramente diverso, come è stato diverso ricominciare a giocare. Purtroppo, fino a quando non si troverà una soluzione, ci dobbiamo convivere con questo Covid. E quindi è chiaro che se in uno stadio come San Siro ci stanno 60.000 persone, probabilmente 20.000 persone distribuite bene, secondo me potrebbe essere una soluzione. Mi auguro che sia così, perché è chiaro che non è il calcio che vogliamo. Senza tifosi è un altro tipo di calcio, non c'è questa passione, non c'è quell'entusiasmo, non c'è quell'adrenalina. Per quanto mi riguarda, non è ancora una riflessione condivisa con il governo, ma la presenza allo stadio, così come a manifestazioni in cui l'assembramento è inevitabile, certo, perché ci si siede vis-à-vis, vicinissimi, stretti, lei lo sa, come pure, attenzione, in fase di ingresso e di uscita si crea questo assoluto assembramento, secondo me non è assolutamente opportuno. Allora, carrellata di voci dal mondo del calcio, e non solo. Quella che contava di più è stata l'ultima ieri, quella del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: assolutamente non opportuna la riapertura degli stadi per l'assembramento che si crea dentro, per l'assembramento che si crea nell'afflusso e deflusso. A ore, a minuti forse, insomma, arriverà l'ufficializzazione del DPCM che chiude gli stadi almeno fino al 30 settembre, poi si vedrà. Del resto la stessa cosa l'aveva anticipata Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Il CTS si era già capito nei giorni scorsi davanti alla richiesta della Juventus di riaprire l'Allianz Stadium a capienza ridotta, era di parere contrario. Allora, io voglio sapere cosa ne pensate. 800 24 00 24, se è giusto, se in questo momento, come ha detto il Premier Conte, il calcio non è una priorità di questo paese, ci sono altre priorità. Se ha senso giocare o no a calcio a stadi chiusi, ad esempio, che è uno dei temi, lo ha portato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando di questioni economiche. Matteo. Ma è un argomento molto molto complesso, molto complesso. Intanto secondo me bisogna tenere conto che la data del 30 settembre, ovviamente, c'è una mia, diciamo, conclusione, ma credo di non sbagliare, nasce anche dal fatto che prima si vuole vedere come va la ripartenza delle scuole. Noi teniamo conto che tra poco più di una settimana torneranno milioni di studenti, quindi questo è chiaro che bisogna vedere anche l'impatto di questa ripartenza. Allora, in linea generale credo che siamo tutti d'accordo, cioè sul fatto che lo stadio vuoto sia una tristezza, lo sia per i protagonisti in campo, lo sia per gli spettatori, sia, diciamo, quelli che ovviamente non possono vedere lo stadio che quelli che lo guardano dalla televisione. E quindi questo, diciamo, è una cosa che rattrista tutti. Io credo che laddove si possa sia, come dire, augurabile, auspicabile che qualche spettatore possa entrare. Cioè la mia idea è: noi non possiamo vietare di girare con le macchine per strada per la paura degli incidenti. È chiaro che qualcosa bisogna farlo, bisogna farlo nella massima sicurezza, cioè bisogna fare in modo che i rischi siano minimi, quindi con una capienza ovviamente contingentata, proporzionata rispetto a quello che è il numero di spettatori possibili, cosa che per esempio hanno incominciato a fare un po' le regioni. Io ho letto in questo. Adesso facciamo il panorama, perché ci scrive ad esempio un amico in questo momento: 349-238-6666. Ieri sera a Cesena, Ippica, ippodromo con presenza contingentata, non credo ci siano stati problemi. Posso aggiungere, Giovanni, a questo ragionamento un altro? Cioè, l'uniformità, secondo me, deve essere non solo tra regioni e regioni, proprio per non avere disparità, ma mi viene da dire anche tra stati e stati, tra paesi e paesi, perché andiamo incontro alle coppe, andiamo incontro, voglio dire, a situazioni in cui l'uniformità sarebbe auspicabile, visto che il problema è di tutti i paesi, non è soltanto italiano e non è solo di una regione o di un'altra regione d'Italia, è di tutto il mondo in questo momento. Teoricamente la Supercoppa UEFA Budapest, se non ricordo male, 24 settembre si gioca a stadio aperto. Sì, no, ma allora secondo me non si può dire ci sono altre cose più importanti. È chiaro che ci sono altre cose più importanti, però non deve diventare un pretesto per dire quello non lo facciamo perché diamo la priorità alla scuola. Scuola e stadi aperti c'entrano. La scuola doveva essere la priorità da aprile-maggio. Ma questo è evidente. A maggior ragione lo è a settembre. Ma non accetto chi mi dice ma non riapriamo gli stadi perché ci sono le scuole. Cosa c'entrano le scuole con gli stadi? Sì, c'è un problema forse di comunicazione sempre legato al calcio. Esatto. C'è stato Matteo all'inizio con il ministro Spadafora e i suoi ripetuti no all'inizio che erano accompagnate da una comunicazione inaccettabile almeno dal nostro punto di vista, e sì, cioè di un continuo bacchettare il mondo del calcio come se stesse chiedendo in quel caso di tornare in campo, salvare almeno i diritti TV. Bravo, se stesse chiedendo una sorta di privilegio di 22 che vogliono divertirsi, mentre invece c'è dietro, e lo abbiamo spiegato in tutti i modi, lo abbiamo capito poi, un'industria con un indotto e con tante decine di migliaia di posti, di posti di lavoro. Oggi io credo c'è un problema di comunicazione, perché non esiste un confronto tra la scuola Bravissimo. E il mondo del calcio e della pallacanestro. Poi parleremo con Umberto Gandini, presidente di Lega Basket. Non esiste questa contrapposizione, perché è anche qui rischiamo di cadere nel populismo, dire no, non pensiamo al calcio perché dobbiamo pensare alla scuola. Certo, è ovvio che dobbiamo pensare per prima alla scuola, ma i due settori, i due ambiti non si sfiorano nemmeno in modo marginale. Poi ai governatori è stata data la possibilità di studiare i protocolli. Ad esempio a Torino il governatore del Piemonte è intervenuto a Radio 24 l'altro giorno dicendo a noi danno la possibilità, abbiamo studiato protocolli con la Juventus e con il Torino, abbiamo dato la nostra condizione di fattibilità in tutta sicurezza della presenza e un numero limitato di persone allo stadio, l'abbiamo trasmessa al CTS, adesso vediamo se si muovono a darci l'ok, perché ci hanno chiesto, la Juventus ha fatto pressione ad esempio per avere la certificazione, la regione gliel'ha concessa e evidentemente ci sono altri interessi, altre sedi in cui questo non va bene. Poi è chiaro che questo dovrebbe essere uniforme in tutte le regioni e in tutti gli stati. Allora, Matteo Marani, l'amico ci scriveva ieri dell'ippodromo a Cesena. Questo pomeriggio Parma-Empoli, amichevole al Tardini con 1000 persone. Abbiamo visto il Gran Premio di Monza senza pubblico, a parte qualche centinaio di operatori sanitari che sono stati invitati. Un gesto molto bello da parte del circo della Formula 1. Settimana prossima Gran Premio di Toscana al Mugello con 3000 persone. Si correrà la MotoGP a Misano con 10.000 persone. Polemiche sui prezzi dei biglietti. Poi gli allenamenti del Napoli, ci segnala un amico, l'avevamo appuntata in questa nostra ricognizione, a Castel di Sangro con oltre 1000 persone. Gli assoluti di Atletica a Padova qualche giorno fa 500 persone. No però agli internazionali di tennis, dove notoriamente non c'è neanche il problema che si fa il tifo urlando e sudando. No alla Serie A, abbiamo detto. Supercoppa di basket, ok ai tifosi, contingentati ovviamente nel derby di Bologna. E poi c'è stata anche l'apertura della regione Lombardia per le squadre lombarde. Ecco, io credo, Matteo, che questa sia la cosa meno accettabile di tutte. Nel senso, questo andare a macchia di leopardo. Ma è esattamente quello che dicevo prima, Giovanni. Cioè, credo che ci debba essere un'uniformità. Questo secondo me è un po' figlio, frutto anche del nostro paese, in cui magari appunto ci sono varie idee, varie logiche che spingono. Probabilmente anche varie situazioni, cioè ci sono regioni in cui l'impiantistica è migliore, quindi permette magari anche qualche passo in avanti che da altre parti è più complicato, ma questo va certamente evitato. Riascoltavo le parole di Conte, è chiaro che lui ha espresso per il momento, al di là del DPCM, quello che va il 30 settembre, ha espresso una posizione sua più personale, che ascoltavo proprio originale parole che ancora non avevo sentito originale, avevo solo letto sui giornali, e devo dire che mi sembra che lui esprima una sua posizione su questo, quindi vedremo poi che forma prenderà. Se posso tornare al discorso che tu avanzavi prima, secondo me è molto interessante, ed è quello del pregiudizio sul calcio. Cioè, per quale motivo questo settore, che appunto è un settore industriale esattamente come il turismo, come il settore manifatturiero, qualunque tipo di settore, sconta e paga ogni volta una sorta di immagine negativa che si trascina e si porta dietro? Ovviamente credo che sia, dal punto di vista diciamo, banalissimo, perché magari ci sono soldi, c'è una presunta richiesta, che poi anche quella ormai comincia a essere secondo me molto inferiore rispetto al passato, ma io credo anche ovviamente per certi atteggiamenti, per certi comportamenti, noi su questi non possiamo non tenerne conto e non censurarli, perché spesso i nostri presidenti sono resi protagonisti di spettacoli sbagliati, uscite veramente intempestive, inaccettabili, a volte anche qualche calciatore, quindi questo purtroppo ha un po' portato questa immagine negativa del calcio. Sono d'accordissimo con voi, non credo che ci sia una questione di contrapposizione tra la scuola e lo stadio, mi sembra una stupidaggine, una solenne stupidaggine. È chiaro che la scuola viene prima di tutto, ma questo per qualunque cosa e per qualunque ragionamento, parlo da padre di famiglia in questo caso e non da giornalista sportivo. Sì, ma anche di sistema, guai se non si riesce a rimettere in piedi l'educazione, tutto quel sistema lì. No, su questo non si discute. Cioè, però se vuoi fare del populismo dici stiamo pensando alla scuola perché dobbiamo pensare al calcio, questo è populismo, direttore. No, voglio dire questo, purtroppo alla scuola si è pensato poco negli anni passati, non c'entrano gli stadi oggi. Ecco, fatemi dire questo. Il problema dello svilimento della scuola non è oggi in contrapposizione agli stadi, ma in questo paese che negli ultimi 20 anni, 30 anni si è smesso di investire in cultura. Infatti la miglior classe che stiamo producendo sta andando fuori dal paese. Torniamo alla questione del calcio. Credo che sia stupido, che sia intollerabile questa contrapposizione. Sicuramente il calcio, come dicevo prima, ha avuto spesso dei comportamenti sbagliati, ha dato di sé una brutta, pessima immagine sull'esterno. Credo questo è un settore importante e se posso, non so se voi condividete con me, guardando quest'estate, il fatto che sia giocato, è vero, in impianti vuoti, questo è dispiaciuto a tutti, lo spettacolo è stato forse meno elettrizzante che con gli stadi pieni. Però poi guardi gli ascolti, guardi le persone che lo seguono, insomma, alla fine mi sembra che la forza attrattiva del calcio rimanga sempre grandissima. Ah sì, non c'è dubbio, anche i numeri della nazionale l'altra sera comunque confermano che l'interesse resta. Grazie Matteo. Grazie a voi. Ciao Carlo. Ciao, grazie a Matteo Marani. Allora, prima del traffico facciamo rapidamente Paolo, provincia di Treviso. Buonasera, grazie per la convocazione. Grazie a te, vai. Sono molto d'accordo con Matteo Marani per un semplice motivo. Io lavorando nel settore da anni, ho fatto l'allenatore di settore giovanile per 30 anni, penso che per adesso magari sia un po' inopportuno ancora riaprire gli stadi. Però quello che mi preoccupa di più è che un settore venga un po' penalizzato, ovvero gli investimenti che non verranno fatti nel mondo del calcio giovanile, e questo vale per qualsiasi altro tipo di sport, pallavolo, basket, che per esso sia, si ripercuoteranno molto probabilmente nei prossimi anni. Quindi marginalizzare un settore che è estremamente ampio e che prevede tantissime persone che ci lavorino, secondo me a lungo andare si rischierà di avere un decadimento in quelli che possono essere un domani i giocatori del futuro. Se non abbiamo futuribilità, non riusciamo a intervenire, a dare una mano a tutti coloro che lavorano nel mondo del calcio, che non è solo quello che noi vediamo per televisione. Sì, ma il mondo dello sport in generale, parliamo anche dello sport di base. Questi sono giorni in cui ci sono decine di migliaia di società sportive, associazioni che fanno giocare i nostri figli, per intenderci. Lasciamo stare Cristiano Ronaldo, non sanno nemmeno se potranno entrare nelle palestre delle scuole, perché nessuno è in grado di dirglielo. Ma questa è una cosa più importante, che non c'entra nulla con gli stadi. Lasciamo stare Ronaldo e tutti gli altri. Lasciamoli stare, però giusto che i nostri figli tornino a scuola, però parte della loro educazione credo sia anche fuori dalla scuola l'attività sportiva che fanno. Dunque adesso fa molto comodo e dà una bellissima immagine di dire stiamo per riaprire scuole. Cominciamo progressivamente a riaprire anche altri aspetti della nostra cultura che non sono esattamente legati alla presenza dei ragazzi in classe, cosa sacrosanta e necessaria, sono legati anche al loro tempo libero. Allora abbiamo il traffico, poi parliamo con Umberto Gandini, presidente della Lega Basket, e parliamo con lui come esponente di uno sport di punta che non vive sui diritti sportivi, ma ad esempio ha bisogno del botteghino, ma ha anche uno sguardo molto largo su tutto quello che è lo sport di base. E poi c'è anche Bruno da Milano, torniamo tra un minuto. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24 tutti convocati. Convocati. Ci state scrivendo in tanti sulla questione stadi, e che noi prendiamo come punta dell'iceberg in assoluto per quel tipo di rapporto che c'è in tutti questi mesi drammatici della pandemia tra il mondo dello sport e il resto. Ovviamente parliamo anche di sport di base, abbiamo parlato tanto in queste settimane, in questi mesi, dei provvedimenti che potevano aiutare lo sport che non fosse il calcio, non fosse lo sport professionistico di altissimo livello, a sopravvivere, ad esempio tutta la manovra di defiscalizzazione sulle sponsorizzazioni. Parliamo anche di quello che succede per quelle discipline, per quegli sport che non vivono di diritti sportivi, come ad esempio il calcio di Serie A, ma vivono molto, per gran parte dei propri ricavi, da quello che arriva dal botteghino di un palazzetto, di uno stadio, di un campo o di un'arena. Saluto Umberto Gandini, presidente della Lega Pallacanestro. Ciao Umberto, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Allora, come hai preso le parole ieri di Conte destinate agli stadi, perché poi il calcio è ovviamente sempre quello che sta in copertina, il calcio di Serie A, ma che si riflettono anche su tutto il resto del mondo? Non sicuramente bene, anche perché io penso che proprio le esperienze che gli altri stanno facendo, noi in particolare, possono servire a dimostrare che in sicurezza si può riaprire, che rispettando le regole basilari, che continuano ad essere distanziamento, mascherine quando non è possibile essere più lontani di un metro, temperatura sotto i 37,5, e lavarsi le mani, tutte queste cose in un palazzetto adesso riaperto, come sai, attraverso le deroghe delle varie presidenze delle regioni italiane, noi lo stiamo facendo. Emilia Romagna, Friuli, Veneto, il Trentino, la Lombardia sono tutte aree in cui le partite della Supercoppa di basket hanno presenza di pubblico limitato, distanziato, secondo un protocollo studiato, secondo un progetto studiato, il che vuol dire che si può fare. Ora continuiamo a sperare che questa possa essere una linea guida che poi diventi una norma che il governo imponga a livello nazionale. Sì, anche perché Conte quando dice nel calcio stanno lì tutti gli uni ammassati agli altri, anche negli altri sport, normalmente nel basket, nella pallavolo, in un'immagine normale stanno tutti ammassati agli altri, ma in questa situazione si tratta semplicemente di stabilire dei protocolli di sicurezza all'ingresso, all'uscita, nella disposizione degli spettatori, e poi sinceramente non vedo perché questo non debba essere possibile, se non, ripeto, per ragioni tra molte virgolette politiche, e la mia paura è che questo stia accadendo per ragioni sempre tra molte virgolette politiche. Non so se è anche la tua sensazione, se è anche la vostra sensazione. Diciamo che ci sono un po' di punti di vista differenti. Sicuramente il calcio attrae masse di pubblico molto superiori a quelle degli altri sport, e non ci può essere una strada diversa per il calcio di Serie A da tutto il resto dello sport, questo lo capisco. Capisco anche che tutti i campionati sostanzialmente andranno a partire più o meno nello stesso periodo, capisco la sovrapposizione con la riapertura delle scuole, quindi il timore che ci siano troppe masse che si muovano tutte nello stesso momento, però ripeto, 1000 persone su 6000 o 10.000 su 60.000 sono molto gestibili rispetto ad altri numeri, cioè, ad altre Umberto, situazioni. Umberto, 10.000 persone a San Siro è una normale notte di gennaio di Coppa Italia, non te ne accorgi neanche. Sì, esatto. Poi dipende, per esempio noi nell'operazione che stiamo facendo con la Regione Emilia-Romagna per le Final Four di Supercoppa del 50° anniversario abbiamo 2 metri di distanziamento invece del raccomandato 1 metro, proprio per avere maggior tranquillità. Abbiamo un impianto molto grande, 2.300 persone, credo, in un impianto quasi da 11.000 persone, quindi questo è una dimostrazione che si può gestire. E quello che sta succedendo, ripeto, in tanti altri capoluoghi di provincia, in tante altre città, nelle nostre regioni, con le partite di basket di questo periodo, dimostra che si può fare. Per capirci, perché poi noi siamo abituati a incentrare tutto il discorso e tutto il dibattito sul grande calcio che muove centinaia di milioni di euro, prende 1,5 miliardi quasi di diritti TV, e quindi uno dice puoi anche fare a meno di quei soldi lì, quelli del botteghino. Cosa significa, significa per gli altri? Pallacanestro, pallavolo e via via a scendere, eventualmente dover rinunciare a tutto il pubblico, anche a quel poco che si prova a mettere dentro, e l'esperienza di questa Supercoppa di basket, insomma, lo sta raccontando. Beh, noi abbiamo una torta di ricavi che è estremamente sbilanciata verso le sponsorizzazioni e i ricavi da botteghino, quindi il fatto di avere il 25%, il 30%, il 50% del pubblico ha un impatto molto importante. Io penso a società come la Fortitudo Bologna, che ha numeri di frequentazione del palazzetto molto elevati, rischia di avere un danno importante, quasi un quarto del proprio budget, quindi queste sono cose assolutamente non sopportabili. Ma tornando al calcio un attimo velocemente, il fatto di avere le porte chiuse per una squadra di livello e di alta classifica può valere 30, 40, 50 milioni di euro in meno di ricavi, che, cioè, che non si regalano nessuno. Certo, ma dopo il GR delle 18 faremo una ricognizione sui conti delle squadre di calcio con Marco Bellinazzo. Si sono lette anche cose molto interessanti negli ultimi giorni sui conti della Juventus, sui conti dell'Inter. Ci sono le parole di De Laurentiis, che ha denunciato danni per 150-200 milioni di euro per il Napoli, e quindi cercheremo un po' di capire che cosa sta succedendo e che cosa succederà nei prossimi mesi. Grazie Umberto. Ciao Umberto. Buona giornata. Ciao, grazie Umberto Gandini. Vi faccio sentire in diretta Mattia Binotto da Sky. Adesso lo sentiamo dopo il weekend difficile, dopo la caporetto di questa Ferrari oggi nel Gran Premio d'Italia con Vettel e Leclerc fuori. Vettel dopo 6 giri e Leclerc al giro numero 25 andando a sbattere alla parabolica. Binotto. Cosa si intende per riscatto? Però fare una prestazione meglio del Belgio e d'Italia certamente. Torniamo su una pista con caratteristiche diverse, con pacchetti aerodinamici diversi. Ci contiamo, poi insomma dopo due gare come queste promettere diventa sempre più difficile. L'ultima cosa, Sone, sto approfittando, che confronto ti aspetti con la dirigenza dopo una gara come questa? Ma con la dirigenza i confronti sono continui, insomma non serve una gara come questa per confrontarsi. Ci siamo confrontati nei giorni scorsi, ci continueremo a confrontare, ma in modo sempre costruttivo e credo di aiuto da parte di tutti. Allora, questo Mattia Binotto nel post gara del Gran Premio d'Italia a Monza ha detto Leclerc che la Ferrari è molto difficile da guidare, ho dato il massimo ma ho fatto un errore, non so se ho chiesto troppo alla macchina forse, ma ho preso il muro. Questo Leclerc, protagonista oggi di un bruttissimo incidente a Monza, fortunatamente senza conseguenze per lui. 800 24 0024, Bruno da Milano. Bruno. Sì, ciao a tutti. Volevo solo dire, cioè, secondo me siamo in piena grandissima ipocrisia. Te lo dice un padre di famiglia che ha appena dipinto le aule di suo figlio che fa le elementari, e quindi mettere in paragone una realtà che produce ricavi e gettito fiscale per lo Stato con una scuola dove i genitori portano la carta igienica non mi sembra una grande genialata, considerando poi che hanno fatto di tutto per aprire discoteche, andare in piazza a protestare con mascherine o niente e altro. E noi abbiamo centinaia di società dilettantistiche prossime al fallimento. E penso, il CONI, come li sostiene l'atletica leggera e tutti gli altri sport senza i proventi della Serie A? Cioè, non so, sembra di vivere in un altro pianeta. Tema Bruno che abbiamo affrontato da questa primavera, se hai avuto la pazienza di seguirci in una battaglia che abbiamo condotto per il ritorno in campo del calcio, non perché non potessimo vivere senza, ma perché aveva il diritto di essere trattato con la dignità di un qualunque altro settore industriale di questo paese. Ma poi, insomma, quanti catastrofisti abbiamo sentito nel corso dei mesi? Ma se c'è un positivo e ma se riprende tutto, che mi risulta il campionato di Serie A, la Bundesliga, la Premier, il campionato spagnolo, le coppe sono stati portati a termine senza grandi problemi di questo tipo. Quindi magari i problemi ci sono stati quando i giocatori sono andati in vacanza e sono tornati positivi al Covid. Allora ci fermiamo per qualche minuto. 800 24 0024 numero verde, siamo in diretta ancora fino alle 19, prenotatevi per intervenire, tema aperto, questi sono quelli che vi abbiamo proposto. Ripartiremo dai conti della Serie A, poi il calciomercato, Varanato, mi parleremo del Tour di tennis, riparleremo ancora di quello che si è visto oggi in Formula 1, insomma state con noi fino alle 19. Siete tutti convocati anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati. Tutti Convocati. Allora, intanto la Ferrari ha ritirato appena arrivato il comunicato, ha ritirato l'appello per la vicenda della Racing Point, accontentandosi di quello che ha deciso la federazione qualche settimana fa in questo weekend nero per il cavallino rosso. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta fino alle 19, tema aperto. Abbiamo parlato degli stadi, ma parleremo anche di altro. 349 238 6666, sms e whatsapp. Saluto Marco Bellinazzo. Eccomi, ciao, ciao Giovanni, Marco. Buon pomeriggio. Ciao Marco, ciao. Allora vi leggo un'ansa appena battuta che ci fa ripartire dalla questione stati, ma poi andiamo sui conti dei club perché si è letto molto di interessante in questi giorni. Allora, vi abbiamo detto prima che oggi si giocava un amichevole Parma-Empoli con stadio aperto a 1000 persone. Ebbene, l'ANSA racconta, mascherina sempre indossata, biglietti venduti online con posti assegnati e distanziati, controllo della temperatura all'ingresso, niente tornelli per permettere un filtraggio migliore del pubblico. Questi sono gli accorgimenti presi dal Parma per riaprire oggi il Tardini. L'esperimento sembra essere pienamente riuscito. In curva nord e nella tribuna Petitot, i settori aperti al pubblico. Il pubblico è stato molto disciplinato, ha incitato le squadre senza alcun assembramento. Diversi tifosi, per evitare problemi, si sono presentati allo stadio anche con un'ora e mezza di anticipo, nonostante il caldo. Alla partita è mancato il tifo organizzato del Parma perché gli ultras hanno disertato. Io non so se sia una cattiva notizia questa, ma è un mio parere personale. Quindi questo è successo questo pomeriggio a poche ore dal DPCM che chiuderà gli stadi almeno fino al 30 settembre. Marco, si è letto molto dell'impatto del Covid sui conti del calcio, chi può spendere, chi non può spendere, chi ha smesso di investire. Quanto condiziona la crisi del Covid, parliamo dei grandi club di Serie A, il calcio italiano? Beh, partiamo dal fatto che euro più euro meno ogni giornata si giocherà con gli stadi chiusi, costerà circa 8 milioni a tutto il sistema, quindi il DPCM costerà 16 milioni solo alla Serie A, in media ovviamente, perché poi dipende dal tipo di partita, ma questo per darci la misura di quello che significa tenere gli stadi chiusi, senza contare poi l'impatto sugli sponsor, che non sarà secondario, perché gli introiti da sponsorizzazioni creeranno fra il 20 e il 30%. Nei prossimi contratti, e molti sponsor non hanno pagato tutto quello che c'era da pagare nei contratti dell'anno scorso, lo vedremo poi appunto nei conti che ci saranno. È evidente che una politica che semplicemente decreta il lockdown e non si assume la responsabilità invece di dettare quelle regole sicuramente faticose, complesse, che comportano responsabilità per riaprirli parzialmente, è una politica che non fa il suo lavoro, a mio avviso. Questa è stata la settimana in cui abbiamo letto la proiezione dei conti della Juventus, verranno di fatto ratificate a fine mese, ci sarà qualche scostamento, ma lì siamo, quindi 69 milioni di euro di passivo al 30 giugno dell'anno scorso. Deve sorprendere, spaventare i tifosi della Juventus questo numero o no? Ma assolutamente no, nel senso che faceva parte del piano Ronaldo. Ronaldo costerà nei suoi 4 anni alla Juventus circa 300 milioni, tra l'ingaggio annuale, le tasse e l'ammortamento del cartellino. Se la Juve in questi 4 anni riuscirà ad ottenere un incremento di fatturato complessivo rispetto all'era pre-Ronaldo di almeno 300 milioni, grosso modo le due cose si saranno pareggiate. Questo era il piano Ronaldo. È intervenuto un elemento imprevisto come il Covid, che ha comportato almeno una cinquantina di milioni in meno di ricavi su questa stagione. Dove ha sbagliato la Juve, a mio avviso, è nel far crescere troppo il monte ingaggi e il monte ammortamenti l'anno scorso, più di 500 milioni. Roba da Barcellona, Real Madrid, che però hanno quasi il doppio dei ricavi della Juve, e questo che sono in grandi, enormi difficoltà, Marco. A loro volta in gravi difficoltà proprio per il Covid, e perché ti puoi permettere questo livello di ingaggi se hai un certo tipo di ricavi, ma anche un certo livello di crescita annuale di questi ricavi, cosa che Real Madrid e Barcellona avevano, perché avevano annunciato che ci sarebbero arrivati entro il 2021 di raggiungere il miliardo di fatturato a stagione. Il Covid chiaramente ha cambiato molto, ha cambiato tutto e ha portato tutti a dover rivedere quello che è il rapporto tra monte ingaggi e diciamo livello del fatturato, perché questi meno 69, meno 70 milioni che arriveranno per la Juve nascono peraltro da una stagione in cui la Juve ha fatto più di 150 milioni di plusvalenze, che è inevitabile fare nel momento in cui tu hai fatturato, diciamo, strutturale, quindi soldi che ti entrano ogni anno per botteghino, Europa, diritti TV e sponsorizzazioni di circa 400 milioni, e un livello di costi che già soltanto per la rosa, appunto, ripeto, di quasi mezzo miliardo, e quindi devi aggiungere 150-200 circa per quanto riguarda l'organizzazione della Juventus. Quindi vuol dire che sei sotto di 150-200 milioni ogni anno, e quel gap lo colmi come? Con le plusvalenze dell'immediato, facendo crescere i ricavi nel medio-lungo termine. Il Covid, certo, ha rallentato tantissimo questo processo, e questo è quello che ora determina le strategie prossime venture della Juventus. Però mi sembra che molte società seguano quella strada lì, cioè grandi nomi che non costano nulla dal punto di vista del cartellino, ma che ovviamente non ti permettono di fare grandi plusvalenze, coperti d'oro. Insomma, adesso si parla di Suarez oppure Ramsey oppure la stessa operazione Rabiot per la Juventus. Parleremo di Vidal in questi giorni per l'Inter. Esattamente, Vidal per l'Inter. Mi sembra che si segua questa via che ti lega le mani con dei giocatori, che grandi giocatori, ma che non hanno futuro. Te le lega per vuoi non fargli un contratto di 3 anni, vuoi non dargli a Suarez 10 milioni l'anno, lordo netto, quello che è. Insomma, mi sembra che si continui in questa direzione. Prendo un supercampione, non mi costa nulla, perché il Barcellona lo lascia andare via, però gli devo garantire per n stagioni tot soldi, che sono tanti. Però facciamo un esempio per spiegarci perché magari oggi puoi fare certe operazioni con queste modalità che ricordavi tu, Carlo, rispetto a quelle fatte appena 2 anni fa. Perché prendiamo i due centravanti, Higuain e Suarez. La Juve prende Higuain, lo ricordate, a 90 milioni, il che significa un ammortamento annuale da 15 di milioni, gli dà 7 milioni e mezzo di ingaggi, che significa grosso modo altri 15 milioni, significa che il signor Higuain costa alla Juve 30 milioni all'anno. Suarez, se anche tu gli dessi appunto 10 milioni di ingaggio, grazie al decreto crescita te ne costa una 15, e in più, arrivando praticamente a parametro zero, comunque con una minima indennità, non ha il costo dell'ammortamento, quindi vuol dire che nel change tra Higuain e Suarez, che è quello che ha in mente la Juventus, vai a risparmiare 15 milioni all'anno. O addirittura vai a risparmiare. Risparmi 15 milioni all'anno. Quindi questa è la strategia, magari non di lunghissimo termine, ma che nell'immediato ti permette di non impoverire tecnicamente la rosa, ma di alleggerire i conti. Sì, detto che poi separarsi da Higuain avrà un costo notevole per la Juventus, così come per il Barcellona lo sta avendo separarsi da Suarez, Vidal, Umtiti, Rakitic e tutti gli altri epurati. Allora Marco, stai lì perché adesso apriamo il discorso su Ning Inter. Ieri c'è chi ha scritto: guardate che da più di un anno Suning ha smesso di investire nell'Inter, secondo me facendo male di conto, ma rifaremo i conti insieme a te. 800 24 00 24, abbiamo il traffico, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Rieccoci con Marco Bellinazzo, Carlo Genta, siamo ancora insieme per 43 minuti, fino alle 19 in questo primo tutto convocati weekend di stagione, e andremo avanti fino a giugno e poi ancora ci saranno da raccontare gli europei, le olimpiadi, e si salderà alla stagione prossima. Allora, stiamo facendo un po' i conti in tasca ai club italiani, abbiamo parlato della Juventus, parliamo invece dell'Inter, che ha evidentemente cambiato strategia comunicativa a proposito dell'idea di investire sul mercato, su grandi colpi, forse ha cambiato anche in assoluto strategia sul profilo di alcuni giocatori da inseguire, la vicenda Tonali lo racconta. Però ha scritto qualcuno su Ning, in realtà già l'anno scorso ha fatto mercato a zero, quindi autofinanziandosi, e non investe, non ha investito e continua a non investire anche per prescrizioni del governo cinese sul rafforzamento della squadra. Secondo me sbagliando, e lo dicono i numeri del bilancio fino a marzo, quindi dei primi 9 mesi di questa stagione, che raccontano invece di un forte incremento alla voce stipendi e ammortamenti, quindi tutto ciò che riguarda il rafforzamento della rosa. Però volevo capire da Marco Bellinazzo qual era la sua fotografia. Ma non credo che Suning, diciamo, abbia idea di tirare remi in barca, anzi, insomma, questo è il momento di investire. Ovviamente anche per quanto riguarda una multinazionale cinese da 70 miliardi, l'effetto Covid si fa sentire, e quindi c'è bisogno di strategie più oculate. In più c'è un discorso che va fatto sull'Inter e su Suning. La Suning finora ha investito anche attraverso contratti di sponsorizzazione con parti correlate, cioè con società della stessa galassia Inter, un po' quello che hanno fatto Paris Saint-Germain e City. Suning lo ha fatto, a mio avviso, diciamo, correttamente, mantenendosi entro un certo limite del fatturato dell'Inter. Ora, quello che all'Inter manca per crescere dai suoi 300 milioni di fatturato strutturale, arrivare a livello della Juventus e arrivare magari anche più in alto, considerando quello che è il livello di fatturato delle big europee in questa corsa a recuperare terreno su chi comanda in questo momento nel vecchio continente, ha bisogno di grandi contratti di sponsorizzazioni che avvengano, diciamo, con parti terze. Per arrivare a quei contratti, pensiamo appunto anche ai contratti che la stessa Juventus ha raggiunto con Adidas, contratti da 50 milioni in su, c'è bisogno di fare un gran percorso in Champions, cosa in cui chiaramente l'Inter al momento sta mancando. E forse però il cambio di strategia che appunto rimarcavi tu, Giovanni, sull'andare su profili già pronti per quel tipo di campagne europee, non su giovani magari di belle speranze ma che devono dimostrare ancora tutto il loro valore, è una strategia funzionale proprio a questo. Anche a questo. Lo stesso andare su nomi già consolidati. Anche perché l'Inter in questa fase che sta trattando ad esempio il nuovo sponsor di maglia, può trattare a breve il nuovo sponsor tecnico, quindi questo è il momento in cui si mettono giù le basi per i prossimi 5-10 anni. Assolutamente, questo va rimarcato con l'idea che non dimentichiamoci che a capo in questo momento di questa strategia all'Inter c'è Beppe Marotta, che anche durante, diciamo, il suo periodo juventino ha sempre guardato, diciamo, a un tipo di crescita oculata e come dire, in cui non si faccia mai il passo più lungo della gamba. Con Cristiano Ronaldo la Juventus e il presidente Agnelli ha voluto accelerare il suo processo di crescita prendendosi grandi rischi, ma fanno parte, diciamo, dei rischi d'impresa che oggi una grande società di calcio deve prendersi. L'Inter ha deciso di percorrere un'altra strada, ma comunque una strada che deve portare all'ingaggio di grandi giocatori e alla possibilità di giocarsi quantomeno, insomma, quarti e semifinali di Champions con regolarità, perché entrare nel novero di quelle squadre significa poter accedere a un altro livello di fatturato, ad altro livello di sponsorizzazioni, e quindi a quel punto avviare un circolo virtuoso nella crescita di un club, cosa che c'è da augurarsi, insomma, che da qui a poco possano tentare di fare altre squadre in Italia, come in primo luogo il Milan. Ultimo flash, De Laurentiis ha detto danni nel Napoli per 150-200 milioni di euro. Sì, sa che il presidente De Laurentiis è sempre fantasmagorico, diciamo, nelle sue ricostruzioni numeriche, fermo restando che va a cogliere un elemento oggettivo, che è quello di una contrazione dei ricavi che il calcio italiano dovrà subire, a partire, e compreso ovviamente il Napoli, che sono già stati subiti lo scorso campionato senza quel taglio agli ingaggi che doveva in qualche modo mitigare questi minori ricavi, perché poi di fatto si è giocato e quindi gli stipendi di fatto sono stati pagati. Di conseguenza, diciamo, una novantina di milioni per tutto il calcio italiano dagli stadi sono venuti meno, ripeto, molti introiti da sponsorizzazione, e vedremo poi nei bilanci quanto questa riduzione pesa e peserà. È evidente allora che quello di De Laurentiis, voglio cogliere come un grido d'allarme alla politica e al governo, affinché ci siano, come dire, interventi seri e non misure frettolose e demagogiche, e soprattutto molto semplici da attuare. Le potrei attuare, diciamo, anch'io da Presidente del Consiglio, cioè, chiudiamo gli stadi, ma quello poi, voglio dire, se c'è una misura che non risolve nulla, non affronta i problemi, non che si voglia sminuire l'importanza dell'emergenza sanitaria, ma è una situazione con cui dovremo convivere fino a marzo, aprile, quando ci sarà, diciamo, il vaccino, e di conseguenza non si può pensare di tenere chiusi interi settori industriali nell'attesa di avere certezze assolute. Il caso di oggi a Parma, secondo me, è un bel esempio, semplice perché si tratta di 1000 spettatori, quindi facile da gestire, ma si possono trovare, a mio avviso, delle misure intermedie tra la riapertura totale e la chiusura totale. Grazie Marco. Ciao Marco, a presto. Ciao, grazie a Marco Bellinazzo. Intanto sta parlando il CT della Nazionale Roberto Mancini. Domani ore 20:45 ad Amsterdam, Olanda-Italia, seconda giornata della Nations League. Al di là della Nations League noi ci stiamo giocando tantissimo in queste prime partite perché c'è in ballo il ranking FIFA. Dobbiamo restare tra le 10 teste di serie, altrimenti a dicembre il sorteggio per il Mondiale del 2022 sono dolori e ci siamo già passati una volta scottandoci. Ha detto che ci sono 4 titolari sicuri, saranno Chiellini, Jorginho, Donnarumma e Immobile. Quindi domani questi 4 giocheranno, questi 4 più altri 7. Saluto Michele Crescitiello, direttore di Sport Italia. Ciao Michele, ciao. Buon pomeriggio. Buonasera, ciao. Ciao Michele. Allora abbiamo fatto un po' i conti con Marco Bellinazzi in tasca ai club. Questa dovrebbe essere la settimana di Vidal, certamente di Suarez non lo so. Oggi dall'Uruguay rimbalzano voci che domani dovrebbe essere il giorno in cui va a fare l'esame di italiano, B1, certificazione di primo livello. Michele. Sì, sono diciamo 4 giorni, da qui a giovedì saranno fondamentali per Vidal all'Inter, 80% di riuscita nell'arco dei 4 giorni, giusto per fare un po' di numeri e dei percentuali. Bakayoko e il Milan, notizie di giornata del pomeriggio, ormai c'è l'accordo totale tra il Milan e il Chelsea, quindi Bakayoko è pronto a rivestire la maglia rossonera. Quindi 99% arriverà. Quanto 90? No, 90. Quanto hai dato tu, Giovanni? No, non lo so, 99%. Bakayoko Milan intendo, 90, Il 90 no, sì. Io darei un 90% perché poi nel mercato, soprattutto in questi tempi, è tutto un po' particolare, però il 90% Bakayoko al Milan lo diamo tranquillamente. C'è poi il Suarez che si avvicina, già ha dato l'ok alla Juventus. Il problema non è tanto Suarez, ma capire se arriva solo Suarez, se arriverà anche un nostro attaccante, perché la Juve ne deve fare due. E soprattutto non vorrei mettere un po' di ansia di domenica pomeriggio ai tifosi della Juventus, ma attenzione perché Dybala continua a non rinnovare. E questo mi sembra che comunque resti un dato di fatto. Sì, soprattutto quando si legge ad esempio dell'idea, dell'ipotesi, secondo me è quasi più una speranza di scambiare Douglas Costa con Morata. No, in questo mercato fatto di tanti scambi, Michele. Ma come dicevo prima, se tu prendi Suarez, io non escludo Dzeko, Morata, Milik. Il tempo sta stringendo e rischia di scadere, soprattutto per la vicenda Napoli-Milik, calciatore in scadenza, e soprattutto continua a voler andare via nell'arco di 7, 10, massimo 15 giorni. Ma inizia a scadere anche il tempo di Dzeko. Morata piace molto a Paratici, Pirlo ovviamente ha già dato la benedizione. Suarez è stata un'opportunità un po' improvvisa 10 giorni fa, però la Juventus sembra che l'abbia colta e anche bene. Sugli scambi credo che la Juventus possa fare molta fatica, così come sta facendo tanta fatica nelle cessioni. E stanno facendo fatica tutti, eh? Io oggi ho letto con interesse e anche un po' con il sorriso la prima pagina di Mundo Deportivo. Nel casino del Barcellona hanno mollato Lautaro 111, non li hanno per andare su Depay, 25 milioni secchi. Ma se ci fai, ma Barcellona non ha una lira, il Real Madrid fa mercato zero, solo uscite quello che riesce s Bologna. Le stesse inglesi non è che stiano facendo i numeri acrobatici. L'unica che sta l'unica che sta comprando è il Chelsea. Tutte le altre sono ferme. Il City, vabbè, voi tentavano di prendere Messi, ma questa è una vicenda fuori da ogni logica. Non è che ci muoviamo in un quadro europeo in cui la Juventus e le italiane sono immobili e gli altri stanno facendo... No, la crisi c'è. Beh, evidentemente. Ragazzi, guarda la vicenda Koulibaly. Per praticamente tutti. Koulibaly, ma c'è rischio veramente, Michele, che resti al Napoli alla fine? No, io qui tornando alle percentuali di prima, di un Koulibaly che resti a Napoli darei un 20%, 20%. Ma forse già siamo larghi. Koulibaly, scusate il termine, ma deve andare via. Deve andare via per una questione di bilancio, per una questione che il ragazzo ha già l'accordo con il Manchester City. È vero quello che dice De Laurentiis, parlare con il Manchester City dopo l'affare Jorginho saltato al City per andare al Chelsea da Sarri, le due società fanno fatica a parlarsi. E allora io sinceramente dico che con chi non fa fatica a parlare De Laurentiis, Michele? Con chi? Non ho capito. Con chi non fa fatica a parlare De Laurentiis ogni volta che c'è da pigliare un giocatore a Napoli, una via crucis? Su questo siamo perfettamente d'accordo, anzi sfondi una porta aperta, però Koulibaly questa settimana deve per forza subire un'accelerata. È vero che De Laurentiis chiede 70 milioni di euro, è vero anche che secondo me li vale, perché se ne valeva 100 come diceva De Laurentiis 2 anni fa, comunque quest'anno i 70 li vale. È anche vero che Haaland però è andato via a 25 più 5 di bonus. Non si può fare un paragone, ma questo ti fa capire che o si abbassano in alcuni casi le pretese, o i calciatori purtroppo quest'anno, in questa sessione estiva di mercato, si restano sul groppone. Sì, ultimo tema, rinnovo di Donnarumma. Oggi il Corriere della Sera, lo citiamo, scrive che la richiesta iniziale di Mino Raiola è stata 10 milioni di euro netti di stipendio per Donnarumma, che tra, ricordo, 147 giorni è libero di firmare gratis per chi vuole. Grave, molto molto grave, il Milan non l'ha gestita bene. Sicuramente io ricordo la spedizione di Mirabelli quando andò a Monte Carlo per quel famoso rinnovo. Da lì bisognava già lavorare per l'altro rinnovo. Il Milan ha perso giorni importanti, tu fai partire il countdown, 10 mil, tu comunque vada, il Milan rischia di perderci. In che senso? Hai dato 7 netti a Ibrahimovic per un altro anno di contratto, stiamo parlando di un attaccante che va verso i 40. Adesso rischi di perdere Donnarumma, non te lo puoi permettere, ma se dovesse restare comunque gli dai 10 netti, va benissimo. O accetti una clausola capestro. Tanti, o accetti una clausola capestro, che è probabilmente l'altro piano di lettura di tutta questa vicenda. Resta, ma se va via fra un anno, due anni, va via a 20-30 milioni. Vabbè, ma d'altra parte tu dici il Milan ha perso tempo, però il Milan che con questa faccia è di un mese fa, quindi come si faceva a risolvere prima la questione Donnarumma quando non si capeva se arrivava uno, restava l'altro? No, secondo me non c'era da dormirci già da 7-8 certo, mesi. Ma si paga quel clima di confusione, no? È da gennaio che si dice che arriva Ragnik, che Maldini va via, che si cambia tutto, poi non cambia invece niente, e dunque si paga in questa vicenda. Il ritardo è figlio di quella confusione. Ciao, però Michele, vi posso fare una considerazione in 5 secondi soltanto, non voglio rubarvi tempo, però se facciamo una considerazione, tu dovresti prima di gennaio trovare un accordo con Raiola per il futuro di Donnarumma, fargli fare un nuovo contratto, e comunque tu farai sbagli, perché oggi non ti puoi prendere un impegno per un ragazzo fortissimo come Donnarumma a 10 milioni netti a stagione senza avere la certezza, e ovviamente a gennaio non l'avrai, a dicembre neanche, di fare la Champions League il prossimo anno. Il Milan senza Champions nei prossimi anni si può permettere un portiere a 10 milioni netti a stagione? Secondo me no, perché i conti non tornano. Sono d'accordo. Grazie Michele, che lasciamo alle maratone calciomercato di Sport Italia. Mentre noi ci fermiamo per un minuto, poi VAR Anatomy, poi ancora il Tour de France e gli US Open. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. VAR Anatomy. Con Luca Marelli. Due settimane all'inizio della stagione del campionato, poi arriveranno anche le coppe europee precedute dai preliminari che verranno in campo per quanto riguarda le italiane, soprattutto il Milan, quindi facciamo un po' il punto, perché questa è stata la settimana in cui abbiamo avuto le conferme, le ufficialità su quello che sarà il gruppo degli arbitri che ci accompagnerà in questa stagione. Saluto Luca Marelli, ciao Luca, ben ritornato. Ciao, ben trovati a tutti. Ciao. Allora, intanto la notizia fondamentale, ma questo è stato a lungo un tuo cavallo di battaglia, è che si torna a mettere insieme gli arbitri di Serie A e Serie B. Mi dici in un flash perché è una conquista importante? Perché dal 2010, quando nel momento in cui Nicky decise di dividere Canai B, la qualità degli arbitri è sempre decresciuta. È inutile negare il problema, perché diventeremo quasi ridicoli anche noi che seguiamo gli arbitri e cerchiamo di fare il bene dell'AIA da fuori. Io, come sai, ci siamo sentiti tante volte in questi anni, fin dal primo momento, sempre sostenuto che la Canai B dovessero essere riunite per ricominciare a creare un gruppo di arbitri che fosse qualitativamente migliore di quello che abbiamo adesso, perché abbiamo qualche 3, 4, 5 arbitri di buonissimo livello, ma di questo purtroppo non c'è nulla, e questo è dovuto alla mancata crescita dell'esperienza di questi ragazzi che, una volta promossi dalla Via La, si trovano in un ambiente che è completamente differente dalla serie cadetta. In questa maniera si farà alternanza tra le varie categorie, chiaramente per i big match avremo gli stessi arbitri che abbiamo visto negli ultimi anni, magari con l'inserimento di qualcuno nuovo, ma soprattutto avremo più spazio per gli arbitri giovani che potranno fare un'esperienza, accumulare l'esperienza per poter essere proposti nella categoria maggiore con più calma, con più cautela, invece di essere promossi e dover essere impiegati solo in Serie A per 14-15 volte, potranno essere impiegati prima 3, poi 5, poi 7 volte per poi diventare parte integrante della Serie A. E nel momento in cui ci sarà qualche difficoltà potranno scegliere se scendere nella categoria inferiore, ricaricare le batterie lontano dai riflettori, riprendere fiducia nei propri mezzi e cominciare a arbitrare. Ha funzionato per 50 anni, non si sa per quale motivo, gli addivisi non ha mai spiegato il perché. Dopo 10 anni lo stesso Nizzi ha deciso di riunirlo. Di tornare indietro. A mettere un errore non è mai un problema. Certo, cambiare idea è un pregio e quindi ci prendiamo questa novità. L'altra novità è che non ci sarà Rocchi, ma questo lo sapevamo da mesi, ma di fatto è l'unico arbitro che, di quelli di Serie A che mancherà l'anno prossimo. Solitamente ci sono dei turnover più ampi. Possiamo un po' capire che cosa è successo, Luca? Guarda, in realtà l'Aia credo che abbia semplicemente pasticciato in questa, anche probabilmente per l'emergenza, per la situazione atipica, ha un po' pasticciato in questi mesi. Ad aprile aveva annunciato che sarebbero stati tre gli arbitri dismessi, si sapeva anche chi erano, Calvarese e Giacomelli. Alla fine ne hanno dismesso soltanto uno, Giacomelli e Calvarese sono stati derogati, perché le nomine sono stati i voli arbitrali sono stati trovati il 31 agosto in vigenza del vecchio regolamento. Tre giorni dopo è arrivato un comunicato che modificava tutto, insomma, hanno pasticciato un po'. Alla fine, tutto sommato, non va male all'Aia, perché Giacomelli e Cavallo sono due ottimi arbitri che vengono da stagioni molto buone. È stato derogato anche a Battista, che pochi conoscono, ma è un ragazzo di 38 anni che però ha delle qualità superiori a tanti altri esterni, potrà essere molto utile. E sarebbe stato anche sbagliato di smettere degli arbitri per limiti di permanenza che si possono venire utili, che soprattutto un giorno dopo che i limiti di età sarebbero scomparsi. Sì, certo. Quindi bene così. La domanda che fa l'uomo di strada, e ci ha scritto anche qualcuno via SMS, è: ma allora non poteva andare avanti anche Rocchi? È un po' diversa la situazione, perché Giacomelli e Calvarese hanno 41-42 anni circa, più o meno sono quelle età. Rocchi ne ha 46 e ne compie 47 tra poco. Limite d'età per la CAN, per gli arbitri in generale, 45 anni, 50 per gli arbitri che operano in provincia. Nel settore giovanile, però, dal 45esimo in poi. È un'altra regola che prima o poi andrà rivista, anche se devo dire molto onestamente che a me non è che esalti particolarmente vedere o immaginare arbitri cinquantenni in Italia come in Inghilterra, che probabilmente sono anche buoni arbitri, ma che sono piantati al centrocampo perché non sono più in grado di correre. Sì, perché la prestazione fisica che si chiede a un arbitro è una prestazione di assoluta assolutamente eccellenza. Sono gli atleti come i giocatori, ma credo che per Rocchi comunque abbia influito magari anche la mediaticità del personaggio, o no? Ma guarda, non so cosa sia successo. In realtà Rocchi era già in giro per un anno, perché gli spettava, essendo arbitro elite, continuare oltre il 45esimo anno per un anno. Era successo anche a Compianto Farina, era successo ad altri arbitri Rizzoli, era stato successo alla deroga automatica, poi decise di prendere in mano la Canà. Io credo che si sia deciso tutto a novembre-dicembre, un momento in cui Rosetti chiese all'AIA di derogare Rocchi ancora per qualche mese per farlo partecipare agli europei che sarebbero svolti quest'anno e soprattutto per dargli la finale di Champions League, che si sarebbe aspettata dopo la finale d'Europa l'anno scorso. Buon per lo Stato, che ha arbitrato molto bene alla finale, effettivamente è stata veramente una finale ben arbitrata, e solo su questo punto ci dovremmo soffermare prima o poi. La finale di Champions League, che è stato l'evento mediatico dell'estate, ha sancito una particolarità, cioè che in Italia ci danno rigori troppo facilmente. Abbiamo visto un episodio su Mbappé proprio nel secondo tempo che non è stato assolutamente preso in considerazione dal VAR, ma soprattutto, e questa è la cosa più importante, nessuno né in Francia né in Germania ha minimamente accennato questo episodio. In Italia, in realtà, su alcune trasmissioni locali è stato indicato come un errore clamoroso. Non è così. Questi rigori non devono più essere assegnati. Avremo tempo settimana prossima, nell'ultima domenica senza campionato, per affrontare questo tema, detto che poi si è visto qualcosa di pessimo anche negli arbitraggi delle Final Eight di Europa League e di Champions League, in alcuni casi catastrofico, in altri con qualche sfumatura. Grazie Luca, settimana prossima. Ciao Luca. A voi buon lavoro. Ciao, ciao. Andiamo sulle strade del Tour de France, Pier Augusto Stagi, ciao. Buonasera a tutti, ciao. Ciao Pier Augusto, allora oggi nona tappa, la seconda Pirenaica, è stato ancora un festival sloveno, do io l'ordine d'arrivo. Pogacar ha vinto in una volata ristretta davanti a Roglic e Hirschi. In classifica generale Roglic si è preso la maglia gialla grazie al gioco degli abbuoni, dietro di lui Bernal e Martin. Siamo comunque ancora, anche se siamo alla fine della prima settimana, nelle prime fasi, perché tutti sono compresi in una trentina di secondi. Possiamo fare un rapido bilancio di questa prima settimana che abbiamo visto, Pier? Il bilancio è buono, sportivo, un ottimo Tour de France, combattuto, con non banale, non scontato, apertissimo. Quest'anno ci sono due squadre molto molto forti, che sono appunto la Ineos di Egan Bernal e la Jumbo Visma di Primoz Roglic. Ma tra questi due litiganti c'è questo ragazzo, il pupo della UAE Emirates, sloveno anche lui, che ha solo 21 anni, al suo primo Tour de France, che credo che a tutti gli effetti sia già la sorpresa di questo Tour, ma sarà la sorpresa di tutto il Tour, perché non è una comparsa destinata a stare lì solo per la prima settimana. Se non avrà sfortuna, è un corridore che si lotterà per la maglia gialla, assolutamente. Ha avuto già un problema con i ventagli nella settima tappa, completo, buono, ecco, completo della pensiero. Corsa, 1:12, però niente, allora abbiamo qualche problema di collegamento, adesso proviamo con Pietro Lacorte a ristabilire il collegamento con Pier Augusto Stagi. Pogacar, che ha avuto qualche problema nella giornata dei ventagli, ha perso parecchio tempo, però poi piano piano si è ricostruito la sua classifica, in questo momento è a 44 secondi da Roglic, quindi è assolutamente certamente un ottimo corridore. Poi un giorno sarebbe bello, con più calma, approfondire i motivi e i semi di questa ondata sloveni, vanno così forte. Che non è esattamente la scuola ciclistica storica, quella della Slovenia. Abbiamo vissuto l'ondata dei britannici e adesso stiamo vivendo l'ondata degli sloveni, che sono certamente, come dice Pier Augusto Stagi, dei corridori molto giovani, ma che già vedi saranno dei corridori veri. Pier Augusto, che abbiamo recuperato, domani primo giorno di riposo, primo giorno della verità con i tamponi a tappeto nel gruppo. Abbiamo visto delle scene sui Pirenei veramente censurabili, lo diciamo, perché va bene tutto, ma l'emergenza Covid esiste, questo doveva essere un Tour de France a porte chiuse ed è stato tutto tranne che quello. C'è il rischio in realtà che tutto questo abbia un impatto sulla classifica, cioè noi raccontiamo una cosa che magari fra due giorni sarà profondamente diversa a causa di qualche esclusione. E beh sì, questo è il pericolo, perché in realtà i corridori, tra le altre cose, è uno sport di resistenza al ciclismo, e ogni giorno che passa è un giorno di logoramento, e quindi gli anticorpi a tutti gli effetti vanno a mancare nel fisico di un corridore. Quindi se si trova a dover passare in un tunnel creato da persone scalmanate che urlano senza la mascherina in faccia ai corridori, pensa quanto droplet va a finire nelle narici di questi atleti, che rischiano. E loro comunque ogni 4 giorni fanno questi tamponi, devono farli in realtà anche i giornalisti e tutti quelli che sono nella bolla, però questo è ridicolo. Da un lato il Tour è rigorosissimo, vorrei dire che addirittura i giornalisti fuori dalla sala stampa hanno un motorhome dove possono andare a fare gratuitamente, e nel giro di poche ore hanno il responso del tampone, quindi è tutto organizzato a regola d'arte, però poi lasciano la libertà di salire in montagna e addirittura avvicinare piacevolmente i corridori. Devo dire che oggi sono comunque corse ai ripari diversi servizi giornalistici, sia di carta stampata, siti e televisione. Oggi al Tour hanno subito prontamente rimediato e hanno messo la gendarmeria a controllare la salita sui Pirenei. Corde, quindi hanno praticamente legato quindi i corridori, che ormai devono stare attenti non solo alla strada, ma anche gli spettatori che ormai hanno sempre in mezzo alle ruote. Allora, abbiamo il traffico a proposito di strade, poi l'ultimo tema con Pier Augusto Stagi, Fabio Aru, che oggi si è ritirato, ma fanno discutere le parole durissime di Saronni, che vi leggeremo dopo il traffico, e poi parleremo anche di tennis US Open. Si siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Ultima parte di questa prima puntata della nuova stagione di Tutti Convocati Weekend. Saremo in onda da oggi tutte le domeniche dalle 17 alle 19, poi durante la settimana restiamo ovviamente al tradizionale appuntamento dalle 14 alle 15. Siamo con Pier Augusto Staggi per parlare del Tour de France. Ultimo tema, Fabio Aru ritirato, le parole di Saronni: per noi Aru è una delusione, ha problemi anche di carattere psicologico, non è in grado di reagire alle prime difficoltà, non ha carattere, dovremo anche fare valutazioni su chi ha deciso di portarlo al Tour de France. A proposito di giovani o ex giovani che si stanno mettendo in luce, Pier. Vabbè, Beppe Saronni è chiarissimo, è nel suo stile e credo che abbia detto la verità, perché alla fine ormai dopo 3 anni, noi ricordiamoci, no? Perché spesso nell'immaginario collettivo si pensa ai corridori poverini che non guadagnano niente, che sono i calciatori, no. Fabio Aru è una delle eccellenze del ciclismo mondiale, guadagna da 3 anni 3.300.000 euro a stagione. È logico che l'investimento è importante e da lui si aspetta, come in qualsiasi settore del lavoro e della vita, i risultati per quello che tu percepisci. In questi 3 anni non ha ottenuto nulla. Primo anno è andato molto male, anzi addirittura è stato ribaltato lo staff della Y Emirates proprio perché non riuscivano a comprendere cosa aveva, cosa si sbagliava con il campione sardo. Secondo anno, se vi ricordate, primo di aprile dell'anno scorso, un'operazione urgente a Prato all'arteria iliaca femorale dove è stato applicato uno stent, e quest'anno siamo alla resa dei conti. Il re è nudo, è stato mandato alla Tour de France, ma ha ragione Beppe Saronni. Ha ragione Beppe Saronni, che ha detto andrà fatta anche una riflessione su chi ha scelto di portarlo, evidentemente su un palcoscenico che in questo momento è un palcoscenico non adeguato per Fabio Aru, e lo diciamo con grande dolore perché si tratta, come l'ha definita Pier Augusto Staggi, di un'eccellenza del ciclismo mondiale italiano. Se prendi un fuoriclasse da 10 milioni l'anno e non fa gol nel calcio, diventa un problema. Diventa un problema soprattutto dargli quei 10 milioni se non hai a fronte dei risultati di livello. A proposito di pulire il talento, parliamo di Matteo Berrettini. E questo è il Berrettini che ci piace, che vogliamo vedere, che comanda con il dritto e poi va a segno. Berrettini che si è qualificato per gli ottavi di finale degli US Open, ottavi di finale raggiunti per la terza volta in carriera in uno slam, raggiunti senza aver ancora perso un solo turno di servizio. E ora ha davanti la sfida con Rublev, in cui parte, credo, sulla carta da favorito, ma chiediamo tutto a Vincenzo Martucci. Ciao Vincenzo. Ciao. Sì, ciao a voi. Sì, parte da favorito perché l'ha già battuto più volte, è avanti nei precedenti 3-1 e perché l'ha battuto in questo stesso torneo l'anno scorso. È avanti perché obiettivamente questo Berrettini sta dimostrando di avere sempre più armi. Anche al servizio mi sta stupendo moltissimo, perché ha aggiunto molta varietà al servizio, è molto più forte di rovescio, molto più sicuro di sé, e obiettivamente Rublev sulla carta è un giocatore molto più lineare. Detto questo, però, Rublev, non dimentichiamo, è un giocatore potentissimo, è arrivato curiosamente, pur essendo più giovane di 2 anni, è arrivato un anno prima sul circuito rispetto al nostro Berrettini, però ha avuto delle difficoltà di crescita diverse, si è fatto male, ha avuto dei problemi alla schiena, ha avuto dei problemi così di ambientamento nel mondo del tennis professionistico, ma la Nike, per esempio, è una multinazionale dello sport, aveva puntato su di lui quando era bambino. Quindi stiamo parlando di un grande talento che sta venendo fuori e del quale bisogna fare molta attenzione. Sì, per Berrettini siamo, Vincenzo, al momento cruciale, che è quello delle conferme dopo gli exploit dell'anno scorso. Quindi direi che adesso capiamo se credo il valore assoluto di questo giocatore. Sì, certo, io proprio questi US Open sono importantissimi per Berrettini, così come Roland Garros e sì, Roma saranno importantissimi per Sinner anche. Cioè la conferma l'anno dopo è importantissima, la conferma è, come sappiamo, cioè il primo anno l'SQA è possibile per tanti, anche se i livelli ai quali sono arrivati Berrettini e Sinner sono molto molto alti, confermarsi è sempre difficilissimo a tutti i livelli e in tutti i settori della vita. Berrettini mi sta stupendo veramente tanto sotto il profilo della personalità. Abbiamo presente che il suo allenatore è rimasto a Roma, Santo Padre. Lui si sta gestendo con i secondi allenatori, sta gestendo un po' da solo. Sono tutti fattori positivi che ci fanno vedere come questo ragazzo sia veramente, c'è solo 24 anni, è un ragazzo che è venuto fuori da pochissimo, perché dall'anno scorso che ha raggiunto questi livelli, il numero 8 del mondo, si sta confermando ad altissimo livello nello stesso torneo, altra cosa molto particolare. E poi c'è questo fattore, sì, è vero, uguale per tutti, l'assenza, diciamo, di pubblico, questo silenzio irreale, questa vita nella bolla, come sappiamo, cioè protetto da tutti e da tutto, che si possono raggiungere soltanto dall'albergo, i campi di allenamento, quindi di gara e tornare indietro, non possono avere rapporti con nessuno. Ma tutto questo però ci fa capire come un giocatore italiano, non dimentichiamo, non appunto abituato all'esecuzione e alla disciplina, come può essere maggiormente un russo, per esempio, no? Sono abituati da bambini a fare delle cose anche si in sta adattando. Sì, si sta adattando alla grande. Tolto Berrettini, di cui abbiamo detto tutto il bene possibile, il bilancio italiano della prima settimana che voto merita? Insomma, non abbiamo raggiunto la sufficienza. Sì, possiamo raggiungere un 6 se ci mettiamo Caruso, che ha comunque fatto un buon torneo, però obiettivamente era lecito attendersi di più un po' da tutti. Sicuramente siamo stati un po' sfortunati, si è stato male. Obiettivamente con un Sinner che va avanti come nelle sue possibilità contro Khachanov e come si è dimostrato poi dal torneo successivo di Khachanov, cioè che era un avversario comunque raggiungibile, il voto sarebbe molto molto più alto. Obiettivamente potevamo aspettarci qualcosa di meglio. Vediamo presente però che Fognini per esempio non c'era, cioè Fognini si sta rimettendo in sesto dopo l'operazione alle caviglie, lo rivedremo adesso a Kitzbühel, poi Roma e Parigi, quindi ecco, Fognini si sta sistemando per la stagione del rosso, che poi non manca molto, segue immediatamente quella che stiamo seguendo invece degli US Open. Ultimo tema, è comunque questo uno slam, lo ricordiamo, non succedeva da tantissimi anni senza contemporaneamente Nadal e Federer, che ruota un po' tutto intorno a Djokovic, no? Vincenzo. Sì, ecco, Djokovic deve combattere come al solito questa guerra nella guerra contro l'opinione pubblica che un pochino non gli crede, lo sento un po' falso, i colleghi che sono schierati in parte contro di lui per la storia del sindacato, non tanto per questa specie di scisma che c'è stato nel sindacato, quanto per il modo, per i tempi, cioè lui l'ha fatto in un momento in cui obiettivamente sembra quasi che abbia voluto colpire alle spalle il numero uno dell'ATP, che poi in italiano Andrea Gaudenzi, che non ha avuto il tempo per via del coronavirus per obiettivamente organizzare obiettivamente il sindacato. E poi però dobbiamo dire che quindi tutti quanti si aspettano che lui vinca, quindi una nuova pressione per lui, non ci sono gli altri due, cioè Federer e Nadal, deve per forza vincere Djokovic, quindi vale un po' meno questo torneo, un altro piccolo morso nella sua testa di numero uno. Sì, anche una cattiveria, Vincenzo. Una cattiveria. Però ecco, la cosa positiva, la cosa più bella finora, secondo me, di questi US Open è che è vero che non ci sono più due, ma ci sono tanti giovani, 10 su 16 hanno 24 anni o sono più giovani, e questo è sicuramente un bellissimo segnale per questi US Open, perché vuol dire che... Era ora di vedere qualche faccia nuova. La qualità del tennis com'è, se abbiamo ancora un secondo? Che qualità di tennis stai vedendo in questa situazione molto particolare? Perché abbiamo parlato della qualità del calcio, del basket, di altri sport che a contesto massimo livello, in contesto particolare, il tennis com'è? E secondo me il livello è molto alto, purtroppo il tennis sta diventando sempre più... in certi momenti un gioco che diventa monotono se i talenti come Tsitsipas, come Shapovalov, come Medvedev non emergono. Ecco, abbiamo fortissimamente bisogno dei Tiafo, l'afroamericano che sono davanti anche lui, tutti i giocatori peraltro che noi abbiamo visto nella FGN di Milano. Questo è un altro dato positivo per il nostro movimento, che ha portato avanti questo gruppo di giovani. De Minauro abbiamo visto qui anche adesso, io sono il protagonista, Cioric, Zverev, tutti i ragazzi che abbiamo visto passare passare da Milano, che ora sono protagonisti ad alto livello agli US Open. Il livello è alto, devono assolutamente aggiungere un po' di qualità, perché altrimenti si corre il rischio di essere di scendere un po' di livello. Grazie Vincenzo. Ciao Vincenzo, arrivederci. Grazie ciao a voi. Ciao, grazie Vincenzo Martucci. Allora, noi siamo in chiusura, Mimmo da Varese lo prendo e lo saluto. Mimmo. Pronto, buongiorno. Ciao, mi spiace, siamo in chiusura. Se avrai la pazienza e la voglia, lo segnalo adesso a Edoardo, riparto da te domani alle 14.05. Se vorrai risponderci ancora, ma siamo in chiusura, grazie. Comunque per aver chiamato. Allora, io mi fermo qui, ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Paolo Corleoni e Pietro Lacorte che si sono alternati in regia. Carlo Genta va in ferie, meritatissime, dopo questa lunga estate. Sentiamo domenica 20. Esatto, ci rivediamo domenica 20, questo significa che ci risentiamo domani ancora con me a partire dalle 14.05 con tutti i convocati fino alle 15, mentre segnatevelo ogni domenica da qui e per l'eternità dalle 17 alle 19, tutti i convocati weekend. Ciao! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao, Radio 24. Saluti! Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.